Sette Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono orgogliosa di essere la prima sindaco donna della città di Roma. E anche questo non possiamo non considerarlo un risultato straordinario. Debutta così la neosindaca Virginia Raggi oggi a Roma. Roma ha finalmente un nuovo governo, lo ha detto anche lei dopo tutti questi mesi di commissariamento. Insomma, inizia questa, come ha intitolato un po' tutti, l'era Raggi di Roma. Vediamo, insomma, auguriamole buona fortuna e vedremo come andrà. Ha presentato la giunta oggi, ne parleremo. Ci collegheremo con Roma per farci raccontare un po' come è andata. Ci sono varie immagini anche di Virginia Raggi col suo bambino che va lì in Campidoglio a salutarla, le salta in braccio, eccetera. Diciamo un lato piuttosto umano e intimo anche della vita di una donna, che può essere benissimo anche la vita di un uomo, quella dove si vede il bambino che l'abbraccia. Comunque, su questo ci soffermeremo dopo. Ci sono poi tantissime altre notizie, perché è arrivata la sentenza su Vatileaks 2, il secondo processo per il secondo scandalo di fuga di notizie dal riservatissimo Vaticano, con il proscioglimento di due giornalisti e delle pene lievi in realtà per gli altri imputati. E poi c'è naturalmente adesso in corso la seconda semifinale degli Euro 2016, Germania-Francia. Sto guardando verso l'alto il video, il televisore, per il momento 0-0, anche perché tra l'altro è appena iniziata questa partita. Altro argomento fra i vari è anche quello naturalmente che sta facendo molto discutere, che ha riaperto il dibattito sul razzismo in Italia, che è quello dell'uccisione del profugo nigeriano a Fermo nelle Marche. Ecco, a proposito di questo, è qui che vi sottopongo il tema per le vostre opinioni, sia sulla pagina Facebook Effetto Notte, lì potete scriverle, oppure al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp, SMS. La domanda è questa: dopo questo fatto, tra l'altro l'uomo che ha ucciso il profugo nigeriano è accusato di omicidio preterintenzionale con l'aggravante del razzismo. Vi chiedo quindi: l'Italia è o rischia di diventare un paese razzista? L'Italia è un paese razzista o rischia di diventarlo? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto, prima di approfondire tutti questi temi, come sempre, un riassunto della giornata. Roma inizia l'era Raggi, ricostruiamo la città, dice la neosindaca, è un'occasione per il Movimento 5 Stelle e per la capitale. Il processo Vatileaks, prosciolti i giornalisti Nuzzi e Fittipaldi, condannati Balda e Sciauchi. Il profugo ucciso a Fermo, fermato l'ultra per omicidio, Alfano sottolinea c'è l'aggravante della finalità razzista. Stati Uniti, proteste in Minnesota per il giovane nero ucciso, il governatore fugge, Obama si dice profondamente turbato per il secondo caso in due giorni di un cittadino afroamericano ucciso dalla polizia. La strage di Dacca, il ministro Gentiloni in audizione al Senato parla di una notte di orrore e agonia per le vittime. Serve, dice, una risposta globale contro il terrorismo. Brexit per il dopo Cameron, in Gran Bretagna sfida tra due donne, May e Litsom. L'inchiesta Labirinto, caos nel nuovo centrodestra, sul sostegno al governo si innesca la partita dei numeri al Senato. Intanto proseguono gli interrogatori dopo gli arresti. Sport agli europei, è la sera di Francia-Germania, obiettivo un posto in finale, e poi la finale invece femminile di tennis a Wimbledon se la giocheranno Serena Williams e la tedesca Kerber. Partiamo quindi da Roma e dal debutto della giunta Raggi, la neosindaca del Movimento 5 Stelle, che si è insediata oggi in Campidoglio. L'avete sentita all'inizio, questa è la prima riunione dell'Assemblea Capitolina, ha detto, che dopo 8 mesi di commissariamento segna finalmente l'apertura di una nuova era e quindi di un nuovo percorso condiviso e democratico che mancava alla nostra città. È la nostra grande occasione, ha detto Virginia Raggi, per cambiare le cose, e l'occasione di tutti i romani per tornare a avere una città che si occupi di tutti. E tra poco, come dicevo, ci faremo raccontare com'è andata questa giornata che Virginia Raggi ha definito decisamente emozionante. Il processo Vatileaks si è concluso questo pomeriggio dopo 21 udienze nell'arco di 7 mesi e mezzo. Il processo Vatileaks 2 sulla fuga delle carte segrete dalla Santa Sede, il primo che oltre Tevere vedeva imputati anche due cronisti, condannati anche se con pene lievi, rispettivamente 18 e 10 mesi di reclusione, i due presunti corvi che sarebbero Monsignor Lucio Valleio Balda e Francesca Immacolata Ciauchi. Assolto con formula piena Nicola Maio, loro collaboratore collaboratore della commissione Cosea sulle finanze vaticane, ma soprattutto prosciolti per difetto di giurisdizione del tribunale, cioè non è il tribunale pertinente vaticano, i due giornalisti che secondo le accuse avevano avuto documenti riservati, quindi Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi, autori dei bestseller Via Crucis e Avarizia, di cui abbiamo parlato diverse volte qui Effetto Notte. Tra poco ci colleghiamo col nostro vaticanista per farci raccontare un po' i dettagli di questa vicenda, di questo processo. E arriviamo così a parlare del profugo ucciso a Fermo per mano di un ultrà. Fermo nelle Marche oggi il ministro Alfano per testimoniare l'impegno del governo. Omicidio preterintenzionale con l'aggravante della finalità razziale. Con questa accusa è stato fermato Amedeo Mancini, indagato per l'uccisione di Emmanuel Chidinandi, il richiedente asilo nigeriano pestato a morte mentre difendeva la compagna dagli insulti. Emmanuel era ospite da 8 mesi nel seminario arcivescovile di Fermo. L'aggressore è un 39enne titolare di una grossa azienda zootecnica, un uomo corpulento con la passione per il pugilato, volto noto della tifoseria ultra della locale squadra di calcio. In mattinata a Fermo il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto, presente il ministro dell'Interno Angelino Alfano. Abbiamo voluto dare un segno chiaro per scongiurare ogni ipotesi di viralità, seminando odio si può raccogliere sangue. Ora la compagna di Emmanuel Scimieri è distrutta dal dolore, dice Don Vinicio Albanesi che ospitava la coppia. La donna in Nigeria era iscritta alla facoltà di medicina e ora l'Università Politecnica delle Marche si è offerta di sostenere le spese per i suoi studi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di questa vicenda poi dovremmo riuscire a raggiungere proprio il sindaco di Fermo. Razzismo comunque che preoccupa anche oltreoceano. Il presidente Obama, il presidente americano, si è detto profondamente turbato delle ultime sparatorie da parte della polizia in cui sono morti cittadini afroamericani. Da sud a nord, dalla foce del Mississippi al Midwest, riesplode la questione razziale negli Stati Uniti e a riaccendere la miccia la seconda vittima afroamericana morta per mano della polizia. Quella che state ascoltando è la registrazione fatta dalla compagna di Philando Castile, il 32enne ucciso all'interno della propria automobile nel Minnesota dopo essere stato fermato dalla polizia per una banale infrazione stradale. Castile avrebbe subito messo in chiaro di avere con sé una pistola regolarmente denunciata. Quello che accade successivamente raccontato dalla donna e dovrà ovviamente essere verificato. Castile avrebbe allungato le mani per prendere documenti e il poliziotto avrebbe reagito d'impulso sparando 4 colpi. Per pura coincidenza l'episodio è avvenuto nel pieno delle proteste per la morte di Alton Sterling, l'afroamericano ucciso mentre veniva trattenuto a terra da 2 poliziotti a Baton Rouge in Louisiana, profondo sud. Centinaia di persone hanno manifestato per 2 notti di seguito per chiedere giustizia. La questione ha fatto irruzione nella campagna presidenziale a 4 mesi dal voto per la Casa Bianca. La violenza contro uomini di colore deve finire, ha detto il candidato democratico Bernie Sanders, mentre la favorita per la nomination, Hillary Clinton, ha definito questi fatti una tragedia che mina la fiducia tra le forze di polizia e le comunità che queste forze servono. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo a parlare della strage di Dacca. Oggi il ministro degli esteri Gentiloni, in un'audizione al Senato, ha detto che la rivendicazione dell'ISIS di questa strage in Bangladesh è attendibile. Alcune vittime italiane, ha detto, sono decedute per colpi di arma da fuoco, altri per colpi di macete, al collo, alla nuca, al volto. È stata una lunga notte di orrore e agonia, ha riferito, invitando a lavorare perché la risposta alla minaccia globale del terrorismo, ha detto Gentiloni, sia altrettanto globale, evitando divisioni e trovando punti di iniziativa comune fra i paesi. E siamo alla politica italiana con il caos nel nuovo centrodestra. La bufera su Alfano investe gli equilibri di governo. Con la sola eccezione di Forza Italia, tutte le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni di Angelino Alfano. Il ministro dell'Interno però tira dritto ed esclude un suo passo indietro, nonostante la bufera per le intercettazioni dell'inchiesta sulla nuova cricca, dalle quali sono emersi i nomi dei suoi familiari. Il leader del nuovo centrodestra è costretto a fare i conti anche con il terremoto nel suo partito, con la fronda che chiede di uscire dal governo e che rischia di far traballare la maggioranza, soprattutto al Senato, anche se oggi Sacconi e Schifani escludono imboscate a Palazzo Madama. Il Partito Democratico, dal canto suo, difende invece Alfano dagli attacchi delle opposizioni e si dice pronto a riaprire il confronto sulla legge elettorale, una delle richieste dei centristi ribelli. Sia al dialogo sull'Italicum, ma dopo il voto sul referendum, avverte però il capogruppo Demma alla Camera, Rosato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E occupiamoci anche di Brexit in questa chiave particolare, cioè tra la sfida che adesso c'è per il dopo David Cameron, tra donne questa sfida per la successione all'ex primo ministro alla guida del Partito Conservatore e anche del governo britannico. La ministra dell'Interno Theresa May, attuale favorita, sarà sfidata dalla sottosegretaria all'energia Andrea Leadsom, sostenitrice della Brexit, al ballottaggio decisivo fra i 150.000 iscritti Tory. All'ultimo turno preliminare i deputati hanno eliminato il terzo candidato rimasto in corsa, l'unico uomo, il ministro della giustizia Michael Gove. Quindi adesso la sfida è tra Theresa May e Andrea Leadsom. Le borse, Milano ha chiuso sulla parità, più 0,08%, un passo indietro rispetto ad altri listini del vecchio continente. Piazza Affari ha risentito dell'andamento debole di alcune azioni bancarie come MPS, di nuovo ai minimi storici, in attesa di novità per la gestione della crisi legata ai 24 miliardi di sofferenze. E sulle banche intanto la trattativa tra Italia e l'Europa vanno avanti. La disponibilità a trovare una soluzione c'è, ma le regole europee su banche e aiuti di Stato devono essere rispettate. Bruxelles ribadisce la sua posizione. La sistemazione degli istituti italiani non può venir fatta eludendo le norme sul bail-in, il monito del presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, e le norme prevedono la condivisione degli oneri tra Stato e investitori. Con l'Italia sono in corso contatti continui. Una ricapitalizzazione preventiva, garantita da Palazzo Chigi, è possibile se sono soddisfatti tutte le condizioni, ribadiscono dalla Commissione europea. Renzi però vuole evitare di coinvolgere chi detiene bond subordinati, come è successo con l'Etruria, e il nodo potrebbe essere quello di risparmiare gli investitori retail. E sul tema sofferenze anche la BCE lancia l'allarme. Il problema dei crediti deteriorati va affrontato a tutti i livelli, si legge nei verbali della riunione del 2 giugno. A rischio sono la stabilità finanziaria e l'integrità del sistema dell'area euro. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo sulla cronaca. Resta in carcere Massimo Galiotto, il 41enne accusato di aver spinto nel Tevere lo studente americano Bo Solomon, trovato morto annegato e ricordato oggi in apertura dei lavori del primo consiglio comunale dell'Era Raggi. L'uomo non ha risposto alle domande del GIP, che ha quindi convalidato il fermo per omicidio volontario aggravato da futili motivi. E ora questa storia: minori sottratti in Congo alle loro famiglie per darli in adozione a famiglie italiane. Questo è il sospetto di almeno di alcuni genitori adottivi che hanno intrapreso le adozioni per la Repubblica Democratica del Congo, ma poi hanno dovuto cambiare ente e paese. Una di loro è Silvia Agnoletti, l'ha intervistata Valentina Furlanetto. Adesso si può parlare liberamente. Perché allora, sono arrivati tutti i bambini. Quindi adesso siamo liberi tutti. E siete liberi di dire cosa? Innanzitutto che ci si approccia al mondo adottivo pensando che sia un bel mondo di solidarietà, e invece no, è un mondo dove gira denaro e ovunque giri denaro ci sono interessi. Alcune coppie hanno verificato alcune irregolarità, praticamente si sono accorti che avevano dei dubbi i genitori sull'adottabilità dei loro figli, che è una cosa tragica per un genitore adottivo. Queste persone si sono rivolte alla CAI, alla Commissione Adozione Internazionale. Che tipo di dubbi avevano? Perché avevano questi dubbi? I bambini stanno dicendo che non era vero che erano orfani, mentre ai genitori è stato detto a tutti che erano orfani. Una notizia di alleggerimento, questa sugli spaghetti, un bisticcio tra Ryanair e l'aeroporto bolognese, gli spaghetti alla bolognese, non so se avete, andando all'estero li trovate dappertutto in tutti i menu che parlano di cucina italiana. Spaghetti alla bolognese sono uno dei piatti italiani più famosi al mondo, peccato che a Bologna in realtà non esistono. Da questo infinito equivoco è nato su Twitter un simpatico bisticcio tra la Ryanair e l'aeroporto Marconi di Bologna. La Ryanair da anni ha fatto ormai di Bologna uno dei suoi scali preferiti, questo ha promosso anche il turismo in città, e sul suo profilo scrive: Bologna è la casa degli spaghetti alla bolognese, come si fa a non amarla? A stretto giro però è arrivata la replica dell'aeroporto Marconi, che ha ringraziato Ryanair per l'attenzione, ma ha precisato che Bologna è la casa dei tortellini, delle tagliatelle, della mortadella, ma che non abbiamo gli spaghetti, giustamente, questa precisazione. Poi questa notizia che riguarda il 2016, che sarà più lungo di un secondo, quindi vi ricordatevene, il prossimo veglione di Capodanno sarà più lungo del solito. Il 2016 ci regalerà un secondo in più, in modo da sincronizzare gli orologi con l'irregolare movimento di rotazione della Terra. Lo ha deciso l'International Earth Rotation and Reference System Service di Parigi, e se l'ha deciso lui, ha deciso. Poi, per chiudere, lo spot sport con le finaliste che sono emerse dalle ultime sfide tennistiche. Le finaliste per Wimbledon sono l'immancabile Serena Williams e poi la tedesca Angelique Kerber, mentre per il calcio c'è altra Germania per il calcio in questa semifinale con la Francia, ci racconta Dario Ricci, sempre 0-0, no? A pochi minuti dall'inizio, Dario? Sì, cara Roberta, siamo al 16esimo, al velodromo di Marsiglia, ancora 0-0, ma non sono mancate le occasioni. Più vicina, subito vicina al vantaggio, la Francia al 7° minuto con una bella combinazione che ha liberato Griezmann di fronte a Neuer. Di fatto però il portiere tedesco ha parato da par suo la conclusione dell'attaccante dell'Atletico Madrid. Poi però c'è stata la reazione della Germania al 13esimo, una deviazione di Thomas Müller, un tiro cross che di fatto attraversato tutta l'area francese, e pochi istanti fa al 14esimo una girata di sinistro di Draxler, questa volta bravo Lloris, il portiere transalpino, a respingere e a salvare la porta dei Blé. 17esimo di gioco, quindi ancora 0-0 tra Germania e Francia. Ricordiamo che chi vince questa semifinale affronterà domenica nella finalissima di Parigi il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Già, grazie Dario Ricci, a dopo, quindi ci aggiornerai man mano sugli sviluppi della partita. Invece vi aggiorno sugli sviluppi dei vostri messaggi a proposito di quello che è successo a Fermo, al di là di quella che è la ricostruzione, un uomo è morto, questo nigeriano di 36 anni, la ricostruzione ufficiale dice che è stato questo ultra a ucciderlo dopo averlo provocato, aver chiamato scimmia la moglie con la quale lui stava passeggiando. E quello che vi chiedo è: l'Italia secondo voi è un paese razzista o rischia di diventarlo? Anselmo sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: io penso che il razzismo è radicato in qualsiasi popolazione mondiale, l'episodio accaduto a Fermo lo catalogherei in forma di bullismo. Poi Luciano dice: prima di dire ciò vediamo bene come sono andati i fatti. Una testimone ha detto che è stato il nigeriano con sua moglie a scagliarsi prima contro il fermano. Comunque quando muore una persona è sempre un dramma. Io posso dire solo che il modo come viene gestito questo esodo di gente regna nell'anarchia, nella confusione, dove non c'è disciplina e ordine cresce l'intolleranza. In un periodo così difficile la rabbia si annida in ognuno di noi. E poi un altro messaggio, questo su WhatsApp, lì potete scrivere al 349-238-6666 per WhatsApp o SMS, se no sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Dice questo messaggio: gli italiani sono fortemente razzisti, quelli che poi si nascondono sono facilmente riconoscibili, iniziano a parlare con un sì però, cioè sì però non sono razzista, dice, e il sì però gli dà qualsiasi licenza per poi dire le peggiori considerazioni razziste. Questo è Tonino da Civitate. Benissimo, ci fermiamo per aggiornare invece chi si sta muovendo viaggiando, ci sentiamo momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E rieccoci subito insieme, sempre Roberta Giordano con voi, i vostri messaggi che continuano a arrivare a proposito di quello che è successo a Fermo, delle polemiche, del dibattito che si è riaperto sul razzismo, visto che questo omicidio ha l'aggravante della finalità razzista, quello che appunto è successo a Fermo con la morte di questo nigeriano. Vi chiedo: l'Italia è o rischia di diventare un paese razzista dal vostro punto di vista? Per esempio Enea dice: cara Roberta, anche per te le testimonianze di chi ha assistito all'evento non contano nulla? Siamo dunque arrivati a questo punto, siamo proprio disposti a tutto pur di riempirci la bocca della parola razzista? Io non ho detto se siamo razzisti o non siamo razzisti, non ho detto che quale ricostruzione ufficiale vi sia, poi sentiremo se riusciamo a raggiungere il sindaco di Fermo tra pochissimo, se può darci qualche dettaglio in più, però per adesso l'uomo che è stato fermato, questo Amedeo Mancini, ultra della Fermana, è stato accusato di omicidio preterintenzionale con l'aggravante delle intenzionalità razzista. Ancora i vostri messaggi al 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte. Dice per esempio Roberto: io penso che i fatti siano ancora tutti da chiarire e approfondire, questa sia una brutta storia, però voglio con tutta la forza dire che l'Italia non è assolutamente un paese razzista, anzi ha sempre aiutato tutti, anche chi forse lo merita. Poi sono contro qualsiasi aggravante, omicidio, omicidio e basta. Buon lavoro, dice Roberto, grazie. Ancora Francesco da Torino: il governo ci sta mettendo alla prova, ormai abbiamo troppi profughi da mantenere e continuando così lo diventeremo razzisti fra non molto, dice Francesco da Torino. Adesso però vi ricordo, prima di passare al tema, quali sono gli argomenti della giornata. Vatilix condannati, Valleio e Sciauchi, tre prosciolti i giornalisti Nuzzi e Fittipaldi per un difetto di giurisdizione, cioè non è il Tribunale Vaticano che deve giudicare i due giornalisti che hanno scritto i libri su Vatilix. Il giorno di Raggi, di Virginia Raggi in Campidoglio, in giunta nessun politico, dice una nuova era democratica, sta iniziando una nuova era democratica che mancava. E poi profugo fermo, pestato a morte, all'omicidio, all'aggravante razziale, alla moglie è stata data lo status di rifugiata e il Presidente della Repubblica Mattarella dice assistiamola, aiutiamola. Proteste in Minnesota, negli Stati Uniti, per un nero ucciso, il secondo nell'arco di due giorni, l'altro in Louisiana. Il governatore del Minnesota fugge, anche un incendio c'è davanti alla sua residenza, allontanato per sicurezza. Obama si dice profondamente sconvolto da questi omicidi. E poi la strage di Dhaka in Bangladesh, il ministro degli esteri Gentiloni oggi in Senato ha detto: per le vittime è stata una notte di orrore e di agonia, serve una risposta globale contro il terrorismo. Lo studente ucciso americano ucciso a Roma, l'aggressore non risponde al GIP e quindi è convalidato per ora il fermo di Galiotto per omicidio volontario. Quindi parliamo di questa vicenda del profugo nigeriano ucciso a fermo. Secondo quanto ricostruito, Emmanuel Chidi Namdi, nigeriano di 36 anni, che era scampato, pensate, agli orrori in Nigeria di Boko Haram, questo gruppo integralista islamico che sparge terrore e sangue per tutta la Nigeria, è, per farvi un esempio, quello che ha portato via centinaia di donne, di ragazze, studentesse, solo per il fatto che studiavano, e cosa ne ha fatto non si sa. Bene, quest'uomo è stato vittima di un pestaggio da parte di un ultra 39enne della Fermana, Medeo Mancini, che prima aveva insultato la moglie dandole della scimmia africana. La vicenda è raccontata nei dettagli sul sito di Comunità di Capodarco, dove due nigeriani erano stati accolti 8 mesi fa. Emmanuel e Chimiari stavano passeggiando in centro, in città, questa è la ricostruzione, andavano in un negozio per comprare una crema, hanno incontrato sul loro cammino due giovani italiani che, secondo la ricostruzione della compagna di Emmanuel, uno dei due avrebbe iniziato a insultare con epiteti razzisti la giovane, cominciando poi a stratonarla, tanto da suscitare appunto la reazione di Emmanuel. Ne sarebbe scaturita una rissa e questo ultra avrebbe preso di velto un paletto con le indicazioni stradali e gliel'avrebbe dato addosso, e con un colpo poi decisivo in testa. Anche quando era per terra, secondo la compagna di Emmanuel, l'avrebbe continuato a picchiare. È stato soccorso dai vigili, dagli agenti di polizia, però poi è arrivato in ospedale in condizioni disperate ed è morto. Amedeo Mancini è accusato di averlo aggredito, lui è un imprenditore titolare di un'impresa zootecnica ed è accusato di omicidio preterintenzionale aggravato dalla finalità razzista. Ne parliamo con il sindaco, che ringrazio per la disponibilità, sindaco di Fermo Paolo Calcinaro. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti, buonasera. Sindaco, innanzitutto, siccome anche l'opinione pubblica aveva tanti messaggi, ci sono persone che dicono: ma siamo sicuri, la ricostruzione è questa, qualcuno ha testimoniato in modo diverso, lei che è sindaco, che testimonianze ha raccolto e che idea si è fatto di come sono andate le cose? No, sono il sindaco di questa città, sono anche insomma avvocato, quindi so quanto in questo momento è difficile e delicato per la magistratura inquirente portare avanti un'indagine con questi capi di accusa. Sicuramente uno dei capisaldi della vicenda è quello della iniziale provocazione di stampo razzista. Questo è uno dei pochi capisaldi che possiamo insomma dire come già accertato. Per il resto io vedo e partecipo, nel senso che i vari incontri possono emergere varie, diciamo, situazioni differenti, però io quello che vorrei dire è che andare a vedere come è andato il momento della colluttazione, secondo me poi potrebbe rischiare un po' di sminuire la morte di una persona nata da un insulto gratuito e razzista, insomma, ecco. Quindi io ora mi sento di dire questo, insomma. Senta, cosa commenta rispetto all'avvocato di Mancini, che non solo dice addolorato, non voleva che morisse, e che dice che scimmia è una cosa che si dicono anche tra politici per insultarsi? Beh, io ho letto le dichiarazioni, l'avvocato ha fatto un discorso un po' un po' diverso, nel senso che l'ho letto, ho detto il Mancini è una persona culturalmente abbastanza arretrata. Quando addirittura dei politici usano il termine scimmia pubblicamente, ecco che il Mancini si sente legittimato in torto, chiaramente questo lo dico io, se non lo dico, non ha detto l'avvocato, a usare questo termine nei confronti di due passanti. Ecco, questo era il ragionamento che io ho colto. Detto questo, per me è assurdo, cioè è assurdo che due passanti di colore possano essere aggrediti e poi trovare la morte così, con un partendo da un insulto razzista gratuito. Questo è assoluto, insomma, è assoluto. Vorrei sentire adesso, oggi c'era il ministro Alfano lì, e mi ha parlato appunto, ha specificato che è soddisfatto che sia stata data l'aggravante di intenzione razzista, e poi ha parlato anche della compagna che adesso rimane sola, sentiamolo. La commissione territoriale che valuta le domande di protezione internazionale ha accolto la domanda della compagna di Emmanuel e della signora Chiniere, che a sua volta si chiama Emmanuel, e le è stato conferito lo status di protezione umanitaria, il riconoscimento della protezione umanitaria. Aveva fatto l'esame il 30 di maggio ed è stato conferito questo status. Questo status, sindaco, che però non è la cittadinanza, status no, di allora rifugiato. Sono cose diverse. Cittadinanza, rifugiato e protezione umanitaria. Cittadinanza si ottiene con un procedimento a sé stante dopo una presenza continuata sul territorio di 10 anni. Il rifugiato o la protezione umanitaria possono essere date da queste commissioni istituite apposta per l'esame dei casi. È vero, il rifugiato dà un qualcosa in più. Qui parlo un po' quasi da avvocato, non sindaco, sì. mi consento, insomma, un qualcosa in più, come anche una piccola diaria, insomma, di sussistenza. E praticamente per il rifugiato viene richiesto un maggior livello di persecuzione di tipo politico religioso rispetto a quella della protezione umanitaria. Sindaco, ma voi l'aiuterete adesso? Ma certo, noi abbiamo una tradizione di servizi sociali che quotidianamente aiuta decine e decine di persone. Pensi che abbiamo qui a Fermo, nonostante siamo solamente 38.000, abbiamo due centri socio-educativi riabilitativi per ragazzi disabili e un centro chiamato il Montessori, che è praticamente un centro sanitario per disabili. Sindaco Calcinano, mi dica, dal punto di vista del razzismo, per esempio, un signor Vinicio Albanesi, che è presidente della comunità di Capodarco, che ospitava appunto questa coppia nigeriana, ha detto: questo fatto rientra nello stesso clima di un contenitore, di un magma formato da violenza, aggressività, frustrazione, esibizionismo non organizzato, ma che velocemente si può coagulare all'occorrenza. Dice che non è soltanto e non tanto razzismo che richiede un pensiero, un'idea, qui invece c'è il vuoto, e in città, dice, c'è un clima melmoso che copre e minimizza, e dice che secondo lui è legato anche a questi ordigni che erano stati messi, piazzati nei mesi scorsi di fronte a edifici di culto di Fermo, no? Al Duomo, a un'altra chiesa. C'è il vuoto? Che città è la sua, sindaco? Allora, no, io su questo oggi ho voluto, avanti alle telecamere di Mezzo Italia, difendere questa città, perché è una città che ha grandissime tradizioni e non a caso la comunità di Capodarco contribuisce, ma cresce qui a Fermo, così come anche altre realtà che ospitano circa oltre 200 rifugiati. Non è un caso, non è che vengono qui all'improvviso, anzi anche prima dell'emergenza lampedusana qui avevamo addirittura molti rifugiati che comunque venivano ancor prima di questa emergenza africana qui in Italia. Però devo dire sì, che l'allarme di Don Vinicio da un'altra parte lo condivido, ma non è specifico di Fermo, è un allarme che forse riguarda la nostra società, forse riguarda tanti ragazzi, tanti giovani che io anche posso conoscere, perché comunque ho 38 anni e quindi insomma un osservatorio privilegiato sotto questo punto di vista. Mancano dei punti di riferimento, la noia e la, appunto la vuotezza spesso lasciano spazio a chi magari vuole pescare nel torbido. Questo è un rischio che però la nostra società sta correndo. In più abbiamo una crisi economica che ha deteriorato un ceto sociale che ora è molto più quasi un po' incattivito, ha creato un solco tra noi e loro, no? Perché si sta più in difficoltà per colpa di una crisi che poi ha colpito tutta l'Italia e il nostro territorio non è esente. Però ecco, io vedo questa situazione e lo dico, siamo tutti un po' colpevoli, lo dico con la prima persona plurale. Grazie Sindaco Paolo Calcinaro, io intanto le auguro di proseguire un po' più serenamente il suo lavoro, affermo. Grazie intanto. Grazie a voi. Buona serata. Ora, tutt'altro tema, perché è arrivata oggi la sentenza del processo VatiLeaks, un processo iniziato dopo la pubblicazione, vi ricordate, dei libri Avarizia e Via Crucis dei giornalisti Fittipaldi e Nuzzi, che rivelavano alcuni documenti inediti su scandali economici in Vaticano. Dal 2 novembre è finito agli arresti in Vaticano l'allora segretario della Commissione per la struttura economico-amministrativa della Santa Sede, Monsignor Balda, imputata anche una donna, Francesca Immacolata Ciauchi, membro anche lei di questa commissione, ed erano considerati due presunti corvi. Dopo quasi 5 ore e mezza di camere di consiglio, il Tribunale del Vaticano ha pronunciato questa sentenza, proscioglimento per i giornalisti Gianluigi Nuzzi ed Emiliano Fittipaldi, perché il Tribunale ha riconosciuto la propria non competenza territoriale, 18 mesi invece al prelato Balda per divulgazione di documenti riservati, 10 mesi alla PR Ciauchi per concorso in divulgazione, però questa pena sarà sospesa per 5 anni. Ne parliamo con il nostro vaticanista del Sole 24 Ore, Carlo Marroni. Buonasera Carlo. Buonasera a te e a tutti voi. Quindi la vicenda, diciamo, è finita, o almeno si spera in Vaticano che sia chiusa qui questa seconda tranche di documenti rubati, fuga di notizie riservate, già la sua seconda puntata, si spera che a questo punto di vista la faccenda sì, diciamo chiusa. Che la prima fu molto più grossa, questa era diciamo di entità e di contenuti molto, molto minori oggettivamente, insomma si parlava di oggetto molto più basso. Comunque sia, sì, si è chiusa, ci sono queste due condanne, ma verosimilmente né il Monsignore né la Ciauchi presenteranno appello, perché da quello che si è capito, insomma, il Monsignore durante il dibattimento ha ammesso le sue colpe, quindi non avrebbe senso che andasse in appello. Lei diciamo si è dichiarata sostanzialmente soddisfatta, insomma c'è ancora 2 giorni, cioè domani e dopodomani, per decidere, ma si è chiusa con una sentenza diciamo così improntata a un forte realismo giudiziario e forse anche diciamo con una grande intelligenza da parte della Corte, che rispetto alle richieste del pubblico ministero ha abbassato notevolmente appunto le pene. Il fatto che i giornalisti fossero non perseguibili, perché non sono né pubblici ministeri del Vaticano né i reati presunti sarebbero stati commessi in Vaticano, quindi la questione della libertà di stampa è risolta. Secondo molti non si era mai posta, ma stiamo dicendo, però comunque sia, si è risolta e anzi è stata riconosciuta come un diritto divino, cito testualmente, la libertà di pensiero. E quindi diciamo la questione è, diciamo, forse il Papa e il pensiero del Papa, e questo papato ha avuto oggettivamente un ruolo in questa sentenza. Sta di fatto che però c'è un fatto importante che è stato detto: questo processo andava celebrato, perché questi gruppi di potere che in qualche modo poi rubano documenti e fanno gruppi di influenza eccetera vanno stroncati. Questo ha detto il Papa, e questo processo probabilmente è servito a questo. A chiudere questa stagione di veleni, complotti e corvi. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te, ciao. Ciao Carlo, buona serata. Dobbiamo andare subito in pausa mentre arrivano i vostri messaggi, ma troviamo il tempo dopo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Continuano ad affluire i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp e SMS. Leggo per esempio questo messaggio di Matteo a proposito dell'Italia: è un rischio di diventare razzista relativamente a questo fatto di Fermo nelle Marche. Dice Matteo: l'uomo che ha aggredito e ucciso il povero nigeriano non è altro che un deficiente, un assassino, e come tale va considerato senza nessuna giustificazione o motivazione. Il razzismo prospera nella società che hanno molto da perdere o che costantemente perdono tutto perché non hanno certezza sulla loro sicurezza e sulle regole. L'Italia da svariati decenni appartiene alla seconda categoria. Noi siamo razzisti perfino con quelli che arrivano dal paesino di fianco, dice Matteo. Vi ricordo adesso velocemente quali sono le notizie più importanti della giornata, poi andiamo subito al prossimo argomento. Roma inizia l'era Raggi, ricostruiamo la città, dice la neosindaca, è un'occasione per il Movimento 5 Stelle e per la capitale. Il processo Vatilix, ne abbiamo appena parlato, prosciolti i giornalisti Nuzzi e Fittipaldi, condannati Balda e Ciauchi. Il profugo ucciso a Fermo, fermato l'ultra per omicidio. Alfano sottolinea: c'è l'aggravante della finalità razzista. E poi c'è la semifinale, seconda semifinale Euro 2016, Germania-Francia, che prosegue 0-0. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, unitamente allo Statuto di Roma Capitale, adempiendo ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione e per il bene pubblico, e di impegnarmi nella cura degli interessi e nella promozione dello sviluppo dell'intera comunità cittadina. E questo è il giuramento della neosindaca di Roma Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle. Oggi si è insediata, prima riunione dell'Assemblea Capitolina, ha ufficializzato la sua squadra, ha detto: sono orgogliosa di essere la prima sindaca di Roma, le dice sindaco Dona, insomma sindaca di Roma. Oggi dice: la nuova era democratica ha inizio dopo 8 mesi di commissariamento, è la nostra grande occasione per cambiare le cose. Ma adesso ci scatta una fotografia di questa giornata Teresa Trillò, la nostra Teresa Trillò in diretta da Roma. Ciao Teresa. Ciao Roberta. Allora, oggi è stata una giornata molto intensa, iniziata alle 3 del pomeriggio e l'aula di Giulio Cesare era pienissima perché c'erano tanti giornalisti ma anche moltissimi cittadini e parenti e amici degli assessori, anche dei neoeletti. E lei è stata accolta, la Raggi è stata accolta con una standing ovation quando è arrivata. Poi c'è stato anche un attimo di tenerezza, diciamo così, perché a un certo punto è arrivato il suo figlio Matteo, che era in aula insieme al papà. Scusa, 7-8 anni, una cosa del genere? Sì, 7 anni, è piccolo, lo ha fatto entrare nel semiciclo dove si riunisce, dove c'è appunto gli scranni dei consiglieri e del sindaco. E si è seduto sullo scranno della mamma e quindi lei ha mostrato come funzionava il microfono, il computer. E questa è stata una cosa un po' inconsueta perché non è mai accaduto in altri insediamenti di sindaci. Chiaramente era un momento di attesa perché si stavano facendo i conteggi sulle schede, sull'insediamento appunto dei consiglieri. E Raggi ha detto che sarà il sindaco di tutti i romani, anche di chi non l'ha eletta. Ha promesso trasparenza, dicendo che aprirà le porte del Campidoglio a partire dall'ultima domenica del mese, e quindi i cittadini potranno visitare il Campidoglio e vedere dove si decidono le cose per la città. Quindi, porte aperte ai cittadini, insomma. Porte aperte ai cittadini, anche e manderà anche in streaming le riunioni del consiglio e ha promesso anche quelle delle commissioni, però c'è da verificare se effettivamente è possibile farlo, certo. Penso ai problemi tecnici comunque. Ha annunciato anche la squadra oggi il sindaco, dopo tanti giorni anche accompagnati da polemiche perché ritardo nella scelta delle persone che avrebbero composto questa giunta. Comunque le aveva detto il 7 luglio, il 7 luglio è stato, sì, no? Alla fine, sì, il 7 luglio, sì, il 7 luglio è stato, però all'inizio aveva detto che sarebbe stata presentata prima, e poi durante il corso di queste settimane ha detto vabbè il 7 luglio. E cominceremo a conoscere poi man mano nei prossimi giorni la giunta Teresa Trillò. Intanto buon governo a Virginia Raggi, soprattutto nell'interesse della città e anche degli italiani. Grazie Teresa da Roma. Grazie a te. Ciao. Intanto, prima di lasciarci brevemente per la viabilità, vi dico che la Francia ha fatto un gol sulla Germania, per ora conduce 1-0. Tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Una notizia che ha finito il primo tempo di Germania-Francia, semifinale, seconda semifinale di Euro 2016, che deciderà la seconda finalista. Per ora chiuso il primo tempo con un gol della Francia, 1-0 sulla Germania. Adesso però vi ricordo le altre notizie importanti. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte, a proposito della domanda che vi ho posto relativamente ai fatti di Fermo: secondo voi l'Italia è o rischia di diventare un paese razzista? Poi continuerò con i vostri messaggi. Ma a proposito delle notizie, i titoli più importanti riguardano appunto l'insediamento a Roma della neosindaca Raggi, ne abbiamo appena parlato. Ricostruiamo la città, dice, è un'occasione per il Movimento 5 Stelle, per la capitale. Poi il processo Vatilix si è chiuso oggi con questa sentenza: prosciolti i giornalisti Nuzzi e Fittipaldi, condannati Balda e Ciauchi. E poi il profugo ucciso a Fermo, fermato l'ultra per omicidio. Il ministro Alfano sottolinea: c'è l'aggravante della finalità razzista. Europa 24 notte. Parliamo di inquinamento da carbone in Europa, con i suoi effetti che condiziona la salute delle persone ben oltre i confini nazionali. Questo è il nuovo rapporto pubblicato da Earth and Environment Alliance, Climate Action Network Europe e WWF, e anche Sandbag, e ha infatti un titolo inquietante questo rapporto, che dice tutto: la nuvola scura sull'Europa, come i paesi a carbone fanno ammalare i loro vicini. E pare che l'Italia subisca molto l'inquinamento di altri paesi confinanti. Ne parliamo con Maria Grazia Midulla, che è responsabile clima ed energia proprio del WWF Italia. Buonasera Midulla. Buonasera, buonasera a tutti. Quindi anche quali chi sono? Sta guardando la partita. Benissimo. 1-0, così aggiorno io, non c'è bisogno di guardarla. Senta, quindi i paesi che inquinano e quelli che subiscono di più, quali sono in classifica? Con l'utilizzo del carbone. I paesi che inquinano sono quelli con un maggiore tasso di centrali a carbone, quindi la Polonia, la Germania e alcuni altri paesi dell'est, anche il Regno Unito, per quanto il Regno Unito abbia deciso di chiudere con il carbone entro il 2025. La stessa Germania poi è anche vittima, un po' come tutti, perché anche noi abbiamo le centrali a carbone, quindi noi subiamo, ma nello stesso tempo siamo anche carnefici, nel senso che anche noi emettiamo questo cocktail micidiale di sostanze inquinanti che provocano molti molti danni alla salute, e un numero di morti che è sempre difficile definire. Però il nostro rapporto è stato revisionato da persone esperte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e di altre accademie, e abbiamo quindi detto che c'è una buona probabilità che quasi 23.000 morti l'anno morti premature siano dovute proprio all'inquinamento da carbone in Europa. Quindi un'Unione Europea unita nell'inquinare con le centrali a carbone. C'è la possibilità che piano piano vengano smantellate? Credo che ci sia la possibilità e il dovere. Le centrali a carbone sono una delle fonti di inquinamento. Peraltro da un po' di anni da noi si parla poco di inquinamento atmosferico, ma invece l'inquinamento atmosferico pesa molto sulla nostra salute in senso negativo. Io credo che il carbone sia destinato a finire. Il problema è che naturalmente oggi, proprio perché è in declino, viene offerto a prezzi molto bassi, a poco prezzo. È la solita logica. Chiarissimo. Esatto. Grazie. Speriamo di andare insomma in una direzione più virtuosa, visto che appunto non ci sono i confini in questo, come dicevamo, l'Europa purtroppo è unita e questa nuvola aleggia sopra tutti i paesi d'Europa. Grazie Maria Grazia Midulla del WWF. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Buona serata. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Come sta andando dunque questa partita? Finito il primo tempo, Dario Ricci ha aggiornato con questo gol della Francia. Sì, sulla il calcio Germania. Di rigore di Griezmann proprio allo scadere del primo tempo ha portato in vantaggio la Francia sulla Germania. C'è stata un'ingenuità del capitano tedesco Schweinsteiger su azione di calcio d'angolo, il colpo di testa del francese della Juventus Patrice Evra e Schweinsteiger che ha toccato il pallone con la mano. Rizzoli, dopo essersi consultato con l'assistente di porta, ha segnato il calcio di rigore che Griezmann ha trasformato di sinistro con freddezza battendo Neuer, che evidentemente ripara solo a noi italiani, Roberta, i rigori, beh, viene da dire. Comunque in questo primo tempo risultato paradossale, perché decisamente meglio la Germania, che almeno in un paio di occasioni con lo stesso Schweinsteiger al 26esimo, al 14esimo con Emre Can, era andata vicinissima al vantaggio. Bravo in queste occasioni il portiere francese Lloris ad opporsi ai tentativi dei tedeschi. Chi ti sembra più in forma delle due squadre, al di là di questo, di questo rigore, di questo gol? Beh, come ti dicevo, meglio la Germania, però la Francia è stata pronta a colpire in una delle pochissime occasioni che ha avuto. Grazie Dario Ricci. Grazie. E poi finirà come finirà, lo sapremo solo più tardi. Intanto ancora poco spazio per i vostri messaggi perché stiamo per chiudere, poi potete aderire senza indugio naturalmente alla pagina Facebook di Effetto Notte anche quando Effetto Notte non è in onda. Scrive per esempio Christian: abito a Fermo, la mia compagna è africana, abbiamo due bambini, in 5 anni mai avuto problemi legati al razzismo. Da parte mia posso dire che Fermo non è razzista, condivido in pieno le parole del sindaco Paolo Calcinaro che appunto è stato poco fa qui a Effetto Notte. Ora devo brevemente chiudere, poi se avete che ci sentiamo alle 22 per gli aggiornamenti.